2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 4 e 5 settembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. In questo modo potete inviarci una email per comunicare qualsiasi tipo di vostra considerazione, domande, proposte, suggerimenti per le prossime puntate. Questa è la nostra ultima puntata della stagione estiva. Torneremo in versione tradizionale dal prossimo weekend. Dalla prossima settimana, da lunedì 6 settembre, c'è un'altra novità che riguarda il mondo della banda larga, un settore, un argomento di cui ci occupiamo spesso perché riteniamo, ma non solo noi, tutti gli esperti lo ritengono fondamentale per lo sviluppo del paese. Una novità che riguarda solo Fastweb, dicevo, dalla prossima settimana i nuovi clienti che attiveranno un collegamento ad internet in fibra ottica, quindi non su tutta la rete Fastweb, solo in quella in fibra ottica, potranno scegliere il nuovo taglio da 100 megabit. È sicuramente una novità interessante per il mercato italiano, perché già cliente Fastweb l'upgrade potrà essere fatto da ottobre. In questo caso sarà necessario l'intervento di un tecnico. Il servizio non è simmetrico e la banda in upload è limitata a 10 megabit. Ci faremo poi spiegare da Fastweb il perché, ne parleremo nelle prossime settimane. Il servizio costa attualmente 10 euro in più rispetto al normale abbonamento, che diventeranno 15 a regime. La fibra ottica di Fastweb, lo ricordiamo, è disponibile a Milano, in gran parte della città, e in porzioni più limitate a Roma, Genova, Torino, Bologna, Napoli e Bari. Un'altra notizia della settimana, sicuramente interessante perché conferma che l'estate 2010 è stata una delle più vivaci sul fronte delle acquisizioni nel settore tecnologico degli Stati Uniti. In settimana si è conclusa la battaglia, possiamo definirla proprio così, tra HP e Dell per l'acquisizione di un'azienda pressoché sconosciuta, almeno in Europa e in Italia, ovvero Tripar, un'azienda californiana specializzata nell'archiviazione e la gestione di dati aziendali. Tra offerte e controfferte si è arrivati a $33 per azione dai 18 messi sul piatto da Dell il 16 agosto. Dietro le quinte di questa battaglia c'è uno dei mercati più promettenti per i prossimi anni, cioè quello dei servizi in the cloud, cioè nella nuvola della rete, il cosiddetto cloud computing, quella serie di servizi erogati via internet che permettono alle aziende di trasferire l'archiviazione e la gestione dei dati al di fuori dei propri uffici. Quindi pensate, tutti i problemi che uno ha a partire dai server, alla sala server da allestire nella propria azienda, e tutti i problemi ad esempio di archiviazione o comunque anche di gestione vengono trasferiti ad altri. Si paga su abbonamento, non sempre si può fare il cloud computing, ma insomma le offerte stanno crescendo. Anche di questo parleremo nelle prossime puntate di 2024 in modo più approfondito. Ricordiamo che HP è il primo produttore di PC al mondo e in questo settore deve difendersi da colossi come IBM e anche EMC, che nel cloud hanno investito molto. It's the biggest change in the iPod lineup ever. Questa è la voce di Steve Jobs e così abbiamo cambiato argomento. Il numero uno della Apple ha presentato quello che lui ha definito il più grande cambiamento nella storia degli iPod, il lettore di MP3 inventato da Apple e introdotto sul mercato nell'ottobre 2001. Dalla prossima settimana la gamma degli iPod verrà completamente rinnovata e tra le novità segnaliamo il nuovo iPod Nano, che è diventato un, potremmo dire, un piccolo quadratino touch, molto piccolo, molto bello. Il Nano è anche l'unico iPod con radio FM, quindi potete anche ascoltare Radio 24 oltre alla musica che avete sul lettore, sicuramente il più bello tra quelli presentati mercoledì. Today we're really excited to launch the next major version of iTunes, iTunes 10. Novità anche per iTunes, che passa alla versione 10 con l'arrivo di un social network dedicato alla musica. Non è Facebook, non è Twitter, ha detto Jobs, ma una cosa che si integra con iTunes per parlare di musica e naturalmente anche per cercare di vendere qualche canzone in più. No, it's not Facebook, it's not Twitter, it's something else that we've come up with. It's a social network all about music. E questa nuova applicazione di iTunes si chiama Ping. Sicuramente uno dei motivi che ha spinto Apple a fare questo grande cambiamento nella gamma di iPod è il trend di vendite, di crescita del lettore MP3. Vista la grande diffusione e vista anche la cannibalizzazione di acquisti che sta facendo l'iPhone a scapito dell'iPod, è necessario dare una spinta in più. Ci sono segnali, oltre che di mercato, del rallentamento delle vendite che sono tornate ai livelli di 4 anni fa, c'è anche un piccolo segnale arrivato dal Giappone, dove, pensate, dal 2001 non accadeva un fatto significativo, cioè il Walkman della Sony ha superato nel mese di agosto in termini di vendite l'iPod dell'Apple. Poi naturalmente vedremo cosa accadrà con questo rinnovo della gamma del lettore MP3 di Apple. E queste sono le novità che riguardano il mondo della musica annunciate dalla Apple in questo tradizionale appuntamento di settembre dedicato normalmente alla musica. C'è però un'altra novità che riguarda invece la TV e in particolare il rilancio della Apple TV che lo stesso Jobs ha ammesso non essere stato un grande successo finora, non è stata una grande hit, ha detto. La Apple TV, lo ricordiamo, è una sorta di decoder, tecnicamente più precisamente un media extender, un set-top box che oggi si presenta nella versione rinnovata come un cubetto 10x10 cm disponibile in un gruppo di paesi tra i quali per ora non è stata inserita l'Italia. Serve per vedere sulla TV di casa programmi prelevati dalla rete o dal proprio computer. Con la nuova versione sarà possibile noleggiare film a $4.99 o programmi televisivi a 99 centesimi. Quello della TV che utilizza contenuti distribuiti via internet sicuramente è uno dei mercati nel quale vedremo molte novità da qui alla fine dell'anno. Altre notizie interessanti arrivano da Berlino, dove c'è l'IFA, una delle fiere più importanti per il mondo dell'elettronica di consumo. Il nostro inviato, potremmo definirlo così, è il nostro esperto di audio e video digitale Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina dirige il magazine online dday.it, è a Berlino non da solo ma con la sua redazione, perché questa fiera sta diventando sempre più importante. Gianfranco, noi all'inizio dell'anno parliamo tutti gli anni dell'Electronic Show di Las Vegas. Berlino sta cominciando, potremmo dire, a fare concorrenza o siamo su due piani completamente diversi? No, si fa molta concorrenza, anzi direi è un secondo polo, è nata qualche anno fa anche un'alleanza molto stretta tra Consumer Electronics Show di Las Vegas e IFA di Berlino. Il Consumer Electronics Show è l'appuntamento che serve soprattutto per il mercato nordamericano e l'IFA è quello di riferimento per il mercato europeo, cioè mentre forse al Consumer Electronics Show si vede qualche novità tecnologica in più, qui si torna un po' più coi piedi per terra e si vedono i prodotti che arriveranno probabilmente entro Natale anche sui nostri scaffali. La bella notizia è che su molti prodotti, su molte iniziative, su molti servizi che sono stati annunciati, l'Italia è stata inserita un po' da tutti tra i primi paesi in cui verranno introdotte queste novità, quindi significa che forse qualcosina sta cambiando anche in quel senso, siamo entrati nelle Big Five europee per quanto riguarda la tecnologia, cosa che non sempre accadeva negli anni scorsi. E questa è sicuramente una buona notizia. Le novità, partiamo dai tablet perché si sono visti per la prima volta anche nomi importanti presentare i tablet. Quando arriveranno, a proposito di essere concreti con i piedi per terra, quando arriveranno sul mercato? Prima della fine dell'anno, quindi stiamo parlando di prodotti annunciati qui a Berlino, ma che stanno per arrivare, quindi sono novità molto molto prossime, molto vicine a noi e sono un po' tutti contro iPad in buona sostanza. iPad è il benchmark, quindi il riferimento da questo punto di vista e tutti i produttori si confrontano su questo piano, cercano di spiegare in qualche modo che il loro prodotto ha dei plus significativi. Ovviamente iPad è uno splendido prodotto, abbiamo imparato a conoscerlo, quest'estate se ne sono visti in giro molti anche sulle spiagge, forse anche un po' a sproposito, ma comunque le mode, si sa, hanno anche questi effetti. Ecco, arrivare adesso un esercito di apparecchi simili per concetto, ma molte volte anche diversi per prestazioni. Stiamo parlando di brand famosi o di produttori poco conosciuti, magari qualche taiwanese che ci prova? I taiwanesi che ci provano ci sono sempre, però ci provano e poi non hanno la forza mediatica neanche per arrivare ad avere una penetrazione importante. Stiamo parlando di brand importanti, prima fra tutti Samsung, che ha lanciato questo Galaxy Tab, che è una versione espansa del proprio telefono Galaxy, oppure un'evoluzione del telefono verso il tablet, non lo so, sarà poi anche il mercato a deciderlo, ma è sicuramente un prodotto molto convincente. Anche Toshiba su questo fronte ha fatto vedere un prodotto, e così altri produttori. Riprende la nostra puntata di 2024, dalla prossima settimana torneremo al nostro appuntamento consueto di un'ora il sabato alle 16. Anche questa puntata e anche naturalmente le prossime puntate del nostro programma sono disponibili sul servizio podcast di Radio 24, tutte le informazioni sono online www.radio24.it, cliccate sulla sezione podcast oppure inviateci una email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, siamo collegati con Berlino dove c'è l'IFA, la più importante fiera europea dell'elettronica di consumo, con noi Gianfranco Giardina. Abbiamo parlato di questo tablet, forse il primo vero concorrente dell'iPad, presentato da Samsung, che monta un sistema operativo che abbiamo già visto nel mondo della telefonia mobile, negli smartphone, utilizzato anche da Samsung, ovvero Android, Gianfranco, giusto? Allora, monta un Android 2.2 ed è un prodotto direi molto molto interessante, soprattutto perché supera effettivamente qualche limite di iPad, non limiti tecnologici del prodotto che è molto bello, ma proprio limiti anche autoimposti da alcune scelte politiche di Apple. Per esempio, una delle caratteristiche importanti del Galaxy Tab è che naviga in internet chiaramente con Chrome, quindi col browser di casa Google, che è compatibile con Flash, contrariamente a quanto accade con iPad. Quindi tutti i siti, anche quelli in Flash o con parte in Flash, menu in Flash, i banner in Flash, sono visualizzabili. Va detto, a onor del vero, che quando si incontrano applicazioni flash molto complesse, effettivamente il Galaxy Tab perde un po' quella fluidità molto buona che invece dimostrano tutti gli altri frangenti. Un'altra differenza importante rispetto ad iPad è che c'è uno slot di espansione di memoria micro SD. In più, questo apparecchio, ovviamente integrando una SIM proprio come fa l'iPad 3G, però permette anche di telefonare, ovviamente o in viva voce o con un auricolare Bluetooth, però è un'altra funzione che per certi versi direi inspiegabilmente iPad non offre, pur avendo all'interno una SIM, quindi sicuramente non può essere il primo telefono perché non è così portatile, anche se è più piccolo di iPad, questo Galaxy Tab più portatile, pesa circa la metà, pur avendo una risoluzione molto, molto alta, però offre anche la funzione di telefono. Un'altra cosa che a me interessa molto e per certi versi mi affascina, ma soprattutto penso all'interesse del mercato per lo scenario che si vedrà tra qualche mese, ma soprattutto tra qualche anno, cioè parlo della possibilità di vedere tramite piattaforme oramai le più disparate, potremmo dire, di video online. Abbiamo recentemente parlato, tu ci hai parlato dell'evoluzione delle Connected TV e appunto in una recente puntata citavi l'IFA di Berlino come possibile appuntamento, momento in cui si sarebbero ascoltati o letti annunci interessanti. Ci sono stati oppure no? Sì, gli annunci interessanti ci sono stati, ovviamente non sul fronte hardware, perché una Connected TV di fatto è una TV con una presa di rete e con una logica interna in grado di fare alcune cose con questa connessione alla rete, e queste sono già ci una sono realtà già, oggi quasi tutte le TV di gamma medio-alta sono Connected TV. Quello che si aspetta e si aspettava era la nascita di nuovi servizi che non sono così facili da allestire, non forse dal punto di vista tecnico, quanto dal punto di vista politico, normativo, accordi quindi molto lunghi, molto complessi, che però stanno dando i primi frutti e si sono visti già degli annunci molto importanti, direi forse paralleli a quelli che Steve Jobs e Apple hanno fatto proprio in questi giorni riguardo al rilancio di Apple TV e quindi della propria piattaforma, che non è una TV, ma è, diciamo, del set-top box, dello scatolotto da affiancare al TV per avere gli analoghi servizi su piattaforma Apple. L'annuncio più importante da chi è arrivato? Se ce n'è uno più importante. Sì, ce ne sono stati diversi, ma direi che il più importante, anche perché sarà subito attivo per l'Italia, viene da Sony. Sony ha annunciato l'estensione della piattaforma lanciata lo scorso aprile negli Stati Uniti, che si chiama Curiosity, ed è una piattaforma che permette a qualsiasi PC collegato alla rete, ma poi a tutti gli apparecchi Sony Connected, quelli che usciranno da adesso in poi ovviamente, di avere accesso a questa piattaforma per la visione di film e l'ascolto di musica. Sono due modalità diverse a seconda appunto del tipo di contenuto, ma sicuramente molto interessanti. Innanzitutto perché l'accordo è praticamente in questo momento, già alla partenza, esteso a praticamente tutte le major. Curiosity arriva in Italia con il noleggio virtuale, lo voglio chiamare così proprio perché così ci capiamo subito, di film. L'utente potrà tramite i TV Sony, ma anche i Blu-ray Sony, acquistare il diritto di visione di un film, diritto che potrà esercitare entro 14 giorni dall'acquisto. Di fatto è un servizio che sostituisce il noleggio, direi forse il de profundis, cioè la pietra tombale sull'era del videonoleggio anche nel nostro paese. Diciamo che dove c'è banda larga non credo che ci sia più spazio per il videonoleggio. Se capisco bene, quindi acquistando una TV, in questo caso Sony, che è equipaggiata con questa piattaforma Curiosity, io non ho bisogno di null'altro se non di una connessione ad internet e con il menu della TV posso acquistare film. Sì, poi in 5 qualità diverse, anche in alta definizione, a seconda della qualità della propria banda. E devo dire, abbiamo visto alcuni esempi, la qualità è molto alta, direi rasenta quella di un Blu-ray disc, quindi è sicuramente molto interessante, pur essendo di fatto uno streaming, un video on demand. Sul fronte della musica invece la policy è leggermente diversa, perché l'acquisto ovviamente non è un noleggio, il file, la canzone si acquista, però non si scarica di fatto, è come dicono gli americani on the cloud, quindi nella nuvola, nella rete, è in realtà sui server di Sony chiaramente. Questo significa che col proprio account, con qualsiasi apparecchio ci si acceda, da dovunque ci si acceda, un utente ha la propria musica. Quindi io sono nel mio hotel a Berlino, perché sono venuto per l'IFA, ed ecco che da qui posso accedere a tutta la mia musica semplicemente collegando il mio PC a internet. È un servizio interessante, senza pensare a dovermi copiare file, di avere problemi con i certificati, col DRM e tutto il resto. Bene, adesso vorrei parlare del 3D, per un motivo soprattutto, per chiarire un po' di cose che vengono dette a volte e purtroppo spesso a sproposito, soprattutto i quotidiani che sono assetati di novità in questa crisi che li attraversa da un po' di tempo, parlano molto del 3D, sembra una cosa affascinante, in realtà forse è la cosa meno interessante, anche perché è quella che si diffonderà meno rispetto ad altri servizi. Però ci sono state novità concrete all'IFA di Berlino sul fronte 3D e soprattutto che cosa, Gianfranco? Molti produttori, confesso per me inspiegabilmente, ma probabilmente sono io che non vedo così lungo, hanno puntato molto se non tutto sul 3D. Ecco, il 3D in realtà è un servizio molto interessante, molto coinvolgente, non può ovviamente guidare lo sviluppo delle nuove tecnologie e della diffusione della tecnologia nelle nostre famiglie, per un limite fondamentale. Nel 2010 sono stati, diciamo, verranno prodotti da Hollywood 30 film in alta in 3D, scusate. E 30 film in 3D ovviamente sono magari un numero importante sul fronte produttivo, ma non sono assolutamente sufficienti per alimentare un mercato in cui forse non tutti sono disposti a prendere e cambiare TV per vedere 30 film, ci vuole che la produzione sia evidentemente molto più alta, che sia estesa anche ai programmi TV, ammesso che abbia senso farle o che si faranno. È di questi giorni proprio dell'IFA l'annuncio, anche se riguarda gli Stati Uniti, della prossima attivazione di un canale gestito da Sony, da Discovery Channel, in 3D, 7 giorni su 7, 24 su 24, ma negli Stati Uniti, un canale. Quindi diciamo che siamo ancora un po' indietro sul fronte dei contenuti, mentre i TV oramai, io penso che da qui a un anno sarà difficile comprare un TV di un pollicciaggio, diciamo da 40 pollici in su, che non sia anche 3D o quantomeno 3D ready, cioè pronto comunque come tecnologia a gestire il segnale 3D. E secondo te per quale motivo i produttori puntano così tanto a questa tecnologia? Per andare sui giornali forse? Beh, questo anche sicuramente molto ha fatto Avatar, il rilancio comunque del pubblico nelle sale cinematografiche proprio sull'onda del 3D, però tutti gli osservatori attenti sanno che è un'euforia che non potrà durare. Cioè io uno spettatore va al cinema a vedere un film, poi due, poi tre, solo perché sono in 3D. Poi però si ritorna a concentrarsi sulla qualità del contenuto, sulla qualità della storia, cioè il 3D può essere una spinta però diciamo limitata al periodo iniziale. Su questo boom mediatico adesso tutti spingono, anche perché è molto facile comunicare il 3D, se io fermo una persona per strada e dico sai cos'è il 3D, probabilmente tutti ne hanno almeno una vaga idea, se io chiedo a qualcuno cos'è il Full HD, quindi l'alta definizione piena, probabilmente sulle definizioni o sui contenuti o su quello che rappresenta per la qualità di visione, qualche dubbio in più l'utente medio ce l'ha. Quindi è chiaro che c'è delle condizioni favorevoli per lo sviluppo del 3D, questo non c'è dubbio, ed è anche molto bello in alcuni casi, non è probabilmente il motivo guida dello sviluppo del mercato dell'elettronica di consumo. Resta il fatto che abbiamo visto videocamere 3D, fotocamere 3D, quindi l'ecosistema si espande, permette non solo allo spettatore di vedere i contenuti, come dire, precostruiti in 3D, ma anche di passare un po' alla fase creativa, produrli, il che forse rende un po' più sensato l'acquisto di un TV 3D in questo momento. Ricordiamo, giusto per curiosità, che le videocamere, le fotocamere 3D hanno due obiettivi che sembrano due occhioni, giusto? Quasi sempre, ci sono poi tecnologie che permettono di catturare immagini 3D anche con un'ottica sola, con alcuni stratagemmi, soprattutto per le fotografie, ma quasi sempre sì, perché bisogna simulare la visione umana, fatta appunto la visione stereoscopica, fatta con due occhi, invece due occhi, due obiettivi, posti più o meno a quei 7-8 centimetri di distanza, che è proprio la distanza che normalmente abbiamo degli occhi, tra un occhio e l'altro. Bene Gianfranco, oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, però quando tornerai in Italia, tornerai nei nostri studi, vorrei comunque riparlare del 3D, in qualche modo anche noi siamo stati coinvolti in questo sciame mediatico, per chiarire un po' di cose. Ad esempio si parla molto di TV in grado di erogare segnali in 3D, di farci vedere il 3D senza occhialini. Qua bisogna spiegare un po' di cose, bisogna chiarire un po' di concetti. Per il momento buon lavoro, grazie, ci risentiamo presto. Grazie mille. E così noi terminiamo questa puntata di 2024. Grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, il sabato alle 16 su Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.